nanna nanna nai nanna nanna na alleluia alleluia a te mio Dio mio Signore alleluia alleluia dove vuoi che andiamo solo tu mio Signore hai parole di vita eterna